Soundcheck. Il suono della musica. DJ Jet Telesco. Telesforo, appuntamento numero 128 del nostro soundcheck, prova del suono qui su Radio 24, pronti per dare il via a una serie di primizie come sempre facciamo in questa nostra piccola grande rubrica musicale. Lasciatemi ancora una volta ringraziare tutti gli appassionati di musica che continuano a scrivere al nostro indirizzo di posta elettronica soundcheck@radio24.it. risponderemo a tutti, daremo le informazioni che ci richiedete, soprattutto sui brani in airplay nel nostro programma. Oggi apriamo l'appuntamento dando spazio a una formazione franco-australiana, sì, perché Mathieu Guilloux, chitarrista cantante francese, incontra nel 2009 questo armonicista australiano chiamato Ian Giddy per creare una formazione che oggi va in giro per il mondo con grande successo, chiamata Mountain Man. Questi signori hanno la passione per il blues, per il folk, per le sonorità acustiche e dopo la prima pubblicazione album intitolato Springtime Coming ricevono anche una bella nomination, un bel premio dalla Blues Foundation of Memphis, quindi un attestato di garanzia per una formazione non americana che ha la passione per il blues. Ultimamente sono arrivati anche in Italia con grande successo, hanno suonato a Terni, un bel sold out al Teatro Comunale di Terni, e speriamo di rivederli in concerto anche la prossima estate. Pare che dovrebbero far parte anche del cast della prossima edizione di Umbria Jazz. Mi auguro che il direttore artistico Carlo Pagnotta abbia il buon gusto di invitarli e di dar spazio a una formazione che in questo momento non solo in Francia ma in giro per il mondo sta ricevendo grandissimi consensi. Il brano, una composizione originale che troverete in questo ultimo nuovissimo album intitolato Hope, si chiama Kiss Me e loro sono Mountain Man qui al Soundcheck di Radio 24. La voce e la chitarra di Mathieu Guilloux, francese, e l'armonicista australiano Ian Giddy per questa formazione chiamata Mountain Man stanno ottenendo grandissimi consensi in tutto il mondo. Un'altra primizia che abbiamo scoperto qui al Soundcheck di Radio 24, brano intitolato Kiss Me, tratto dall'ultima produzione discografica intitolata Hope. Facciamo una breve pausa e torniamo con grande musica come sempre qui su Radio 24. Soundcheck. Il suono della musica. Sempre grandi produzioni, quelle curate dal chitarrista John Scofield, un album missato agli Avatar Studio di New York, un album però registrato a New Orleans. Sì, nel 2009 John Scofield si trovava a New Orleans e non si lasciò sfuggire l'occasione di visitare con alcuni amici eccellenti musicisti della Louisiana i famosi Piety Street Studios per dar vita a questo album tributo alla tradizione del gospel, intitolato infatti Piety Street. Con John Scofield Sand alla chitarra, George Porter al basso elettrico, Ricky Fatara alla batteria e ancora la partecipazione in alcune tracce di John Boutte come vocalist, Shannon Powell che suona un po' di batteria, di percussioni e così via. È in questo brano, che fa parte proprio della tradizione del gospel ma con il sound tipico della Louisiana, intitolato Just a Little While to Stay Here, la partecipazione di un bravissimo pianista organista bianco, cantante, il formidabile John Cleary. John Scofield, lo abbiamo detto più volte, ha suonato di tutto, spaziando dal blues al jazz, con una particolare passione per il groove e per il funk. E a proposito di funk, torniamo qui al soundcheck di Radio 24 a proporvi, a grande richiesta, perché sono arrivate tantissime email al nostro indirizzo soundcheck@radio24.it, dopo aver presentato per la prima volta questa formazione chiamata Rock Candy Funk Party. E in questo caso il produttore e batterista Tol Bergman, insieme al chitarrista Ron DeJesus, riunisce nel 2007 alcuni musicisti per dare sfogo a tutta la loro passione per il funk più puro. E in questa occasione, album nuovissimo intitolato We Want Groove, i due signori incontrano anche il bassista Mike Merritt, il tastierista Renato Neto e il formidabile chitarrista blues Joe Bonamassa, che tra l'altro ha prodotto il disco per la sua etichetta. Questi signori creano così We Want Groove, composizioni originali, e da questo album divertente e anche molto grintoso, eccolo qui, una composizione originale intitolata Octopus E, il manifesto sonoro dei Rock Candy Funk Party, ancora una volta al soundcheck di Radio 24. Check, il suono della musica. E alla prova del suono di Radio 24 arriva anche uno dei miei musicisti preferiti, pianista, organista, nato nel 1968 a Boston. Vi sto parlando del meraviglioso Larry Goldings, un musicista completo, dotato di grandissima sensibilità, che proviene da una famiglia di appassionati di musica. In particolare il papà era un grande conoscitore di musica classica e infatti proprio per questo motivo già all'età di 12 anni Larry Goldings inizia lo studio del pianoforte, per poi approdare lì a Boston alla Concord Academy, alla Eastman School of Music, e per trasferirsi, dopo aver preso anche qualche lezione privata da Ron Blake ma anche da Keith Jarrett, per trasferirsi nel 1986 a New York. E come sempre succede per un musicista che ha del talento, a New York succedono tante cose e quindi incontra tantissimi musicisti, inizia a fare le sue esperienze, continua a studiare anche in una scuola molto importante come The New School lì a New York, e approda anche nel quartetto di Sarah Vaughan. Così nasce la carriera di uno dei migliori musicisti di jazz contemporanei, ma anche un musicista molto versatile. Lavora con Sarah Vaughan, accompagna il grande vocalist John Hendricks per fare anche esperienze diverse in contesti musicali non tanto vicini al jazz, accompagnando della soul India Harry, lavora anche con Walter Becker e Donald Fagen, con Robin Ford, fa blues con Steve Gadd, con Melody Gardot, con la songwriter Ricky Lee Jones, Nora Jones, lavora con tutti, Larry Goldings, ma soprattutto lo conosciamo per le sue strepitose performance con John Scofield, che abbiamo ascoltato anche oggi qui al soundcheck. Vi voglio presentare Larry Goldings facendovi ascoltare due momenti bellissimi tratti dalla sua infinita discografia, sì, perché ha lavorato con tutti ma ha anche registrato più di una decina di dischi a suo nome. Il primo brano che vi faccio ascoltare è una composizione di Gary Usher e Brian Wilson, registrata nel 2011, tratta da un album intitolato In My Room, proprio perché questo album è stato realizzato completamente a casa di Larry Goldings, quindi non in uno studio di registrazione ma con uno studio diciamo in formato tascabile, che ha dato la la possibilità a Larry Goldings di esprimersi utilizzando soltanto il pianoforte e poche sovraincisioni fatte con le tastiere, con l'organo e altri strumenti. Il brano è bellissimo, delicatissimo, dura soltanto 2 minuti e 22 e ce li gustiamo tutti, una canzone molto romantica intitolata The Flower Song, dove viene fuori tutto l'aspetto melodico di Larry Goldings qui al Soundcheck di Radio 24. Sì, mi vengono sempre i brividi quando ascolto The Flower Song nella versione di Larry Goldings, che è senza dubbio oggi uno dei principali organisti della nuova generazione. E nella sua carriera, come vi abbiamo detto, carriera che è ancora in evoluzione, è riconosciuto come organista legato alla tradizione, ma al tempo stesso capace di muoversi su fronti più moderni, restando sempre a proprio agio. Lo abbiamo detto, ha cominciato come pianista per passare poi all'organo, soltanto in un secondo momento. Ha lavorato con tutti, addirittura ho dimenticato di dirvi che ha lavorato anche con Maceo Parker, il famoso sassofonista di James Brown, con Michael Brecker e con Jim Hall, celebre chitarrista purtroppo scomparso pochi mesi fa, ma gli appassionati dell'organo sono legati alla formazione in trio di Larry Goldings. Allora chiudiamo questo appuntamento del Soundcheck con un brano scritto da Larry Goldings intitolato Back in the Day, tratto dall'album As One del 2001, con lui in ottima compagnia naturalmente il meraviglioso chitarrista Peter Bernstein e il batterista Bill Stewart. E quindi Larry Goldings chiude il soundcheck di oggi. Non mi resta che augurare a tutti voi buona giornata e buona musica da Giorgio Telesforo. Soundcheck, il suono della musica.